E allora martedì 7 novembre, ciao a tutti e a tutti. Si sente? Uno, due, tre. Uno, due, tre. Si sente? Si sente? E allora si sente? Perché mi dice che non si sente, Fabio? Allora, mi hai detto il giorno sbagliato, mi hai detto che non si sente e si sente, ma non è possibile. No, me ne vado. E allora ricominciamo, ciao a tutti e a tutti, questa è Note Cose Città, questa è Radio Onda Rossa, sono le 20.08. E ci perdonerete il... siamo un po'... come si dice? Parla. Io come non ti siamo? Perdono. Sì. Tu non mi perdoni, va bene. Però oggi abbiamo un ospite, ecco, siamo ecco. Abbastanza contenti. Oh ragazzi, io devo abbassare 3 canali oggi, più un quarto, per cui abbiate pazienza, farò degli errori, non parlate durante le canzoni. Allora, cominciamo subito, 06 49 17 50, e niente, questa è Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, tutte le informazioni sulla radio, tutte le iniziative, uscita la nuova Scarceranda, vi ricordo anche l'iniziativa di venerdì 9 novembre al Forte Prenestino con Orasi. Allora, siamo pronti per cominciare, abbiamo un ospite, ovviamente l'ospite come è solito lo presenterà Fabio, però Fabio io ho dei dubbi sull'ospite. Che dubbi c'hai? C'ho dubbi perché ho scoperto una cosa durante, intanto in questa attesa, mentre stavamo di là, i divanetti. Change.org, vero? Allora, a me nel 2014 arrivò una notifica sulla mail change.org. Temevo che fosse quello. Aiuta Ferruccio a raccogliere più firme per non far pagare la panna sul gelato a Milano. Non la firmai, perché comunque, cioè, io non la pago, sti cavoli. E non è bello quello che hai detto. No, adesso lo so, infatti chiedo scusa, però non era una cosa, insomma, così che sentivo proprio il bisogno di... È stato un grande errore politico, certamente. Fatto sta che poi questa campagna, a quanto ho capito, non ha avuto un grande successo. Lui adesso, insomma, ce ne parlerà. Però è stata riproposta. C'è una lobby della panna a Milano, C'è una lobby della panna terribile. Addirittura lui ci raccontava che trovava della panna sui lucchetti, sulla saracinesca proprio del negozio. Vabbè, questo poi è un altro discorso. E niente, in pratica, lui adesso ne ha fatta un'altra in cui non è che non vuole far pagare la panna a Milano, la vuole far pagare a Roma. E a me questo, ma... Io ci ho provato a non dirtelo, Ale. Vabbè, io ho dei dubbi, però vabbè, però sta qui adesso, che facciamo? È pure ingombrante, è pure grande. Insomma, quanto sei alto, ospite, scusi? 1,81. 1,81, pensavo bene, però non si viene così con 1,81 a casa della gente, secondo ma non me. È vero che è 1,81 comunque. Ed è più, eh? Sì. Mi è stato ecco io. Vabbè. Mi è stato ecco io. Vabbè, dai, chi è? Cominciamo, chi dai, che stiamo troppo giocondi, se no. Troppo salotto di casa? Sì, troppo salotto di casa, facciamo la serie. C'è un nome, il nome è Ferruccio. Chi è Ferruccio? È l'anima di uno storico negozio di dischi di Milano che si chiama Dischi Volanti. Chi di voi segue, sta sui social network, sta su Twitter, sicuramente lo conosce perché è un personaggio anche lì ingombrante, invadente e che si pavoneggia e insomma va seguito. Ok, non avrei saputo dirlo meglio. E detto questo, noi l'abbiamo conosciuto proprio così, l'abbiamo incrociato e conosciuto e siamo diventati amici grazie a questo strumento, ma non è qui a titolo di amicizia, ma perché essendo una trasmissione che si occupa di musica, abbiamo pensato, anche la prima puntata è stata così, nella prima puntata abbiamo raccontato un negozio di dischi storico. Era, aiutami il nome, non mi ricordo, grazie, una Fabio, grande, una bella figura sto facendo, non New mi York, ricordo, non mi ricordo, ma è Other Music, Other Music. Mio, ma certo Fabio. Ok, questo è Dischi Vivanti, non è Other Music, però abbiamo qui lui e quello che ci interessava è vedere il... Sai, molti appassionati, Ale, almeno quelli che hanno durato i 35 anni, direi, e spero che molti appassionati, che non tutti siano sopra i 35 dei nostri ascoltatori, ma spero che la gran parte siano appassionati di musica e quindi hanno passato, hanno dedicato ore nei negozi, nei vari negozi, nelle varie città. Noi siamo a Roma, ma qui ci ascoltano anche in streaming, quindi cioè, vale anche per tutte le altre città e tutti gli altri centri. A perdersi, insomma, abbiamo pensato di farci raccontare il nostro mondo di appassionati, in qualche caso di ossessionati, in qualche caso di compulsivi, collezionisti e quant'altro, da chi sta dall'altra parte del bancone. E questo, diciamo, è il filo che si proveremo a seguire in questa puntata. C'è un altro motivo perché oggi, perché tra poche settimane, il 19 dicembre, Dischi Volanti compie 20 anni e quindi noi abbiamo provato a immaginare una scaletta che, insomma, che ha seguito l'attività, ha seguito Dischi Volanti in questi 20 anni. Non abbiamo fatto un best of, non sono neanche 20 titoli, sono meno, altrimenti sarebbe stata una puntata tipo Woodstock. Però, insomma, cominciamo però dal primo anno, no, Ale, dal 1998. Come cominciamo? Ma lo facciamo salutare a st'ospite intanto. Ah, infatti. Ferruccio, ma Fabio, ma per piacere, ma chi è? Buonasera, io non lo a tutti. So. Che è Ferruccio? Veramente. Grazie di avermi invitato. Sono veramente contento di essere qui a Radio Onda Rossa. Comunque è vero, i negozi di dischi sono tornati leggermente di moda. Meno male. E soprattutto il pubblico, diciamo che è più variegato. Non abbiamo solo gli over 40 o gli over 45. C'è un sacco, cioè non solo di quelli come te, in pratica. Ok. Ma quanto fa professionale questo tono? Questo tono, sì. Così. C'è un sacco di gente giovane e soprattutto ci sono un sacco di fruitori e non solo collezionisti. Quindi c'è gente che prende il vinile, lo apre. Scusa, Ferruccio, devi fare un po' più semplice, Alessandro. Fruitori. Oh, Madonna santa. C'è gente che compra compra il vinile per ascoltarlo, quindi lo mette sul piatto, gli dà la spolveratina e poi mette giù la piuntina. Che bello. Allora dai, senti, cominciamo a mettere un po' di musica. Solo una cosa, Ferruccio, al volo proprio, e a me hai fatto veramente morire da ridere di là. Ti posso chiedere una sola volta, lo facciamo, poi basta. Me lo fai il verso di Bombolo? Ma certo. Troppo forte sei, Ferruccio. Grande. Come lo fai tu non lo fa nessuno. Che poi a Brescia va tantissimo Bombolo, mi dicevi, no? Il comico preferito. Non confondiamo le idee, di no, là, non confondiamo Brescia. Le idee. Basta, adesso musica. Negozio, ragazzi, a Milano, lui è di Brescia. Negozio a Milano, lui è di Brescia, però vabbè. Okay. Comunque, allora cominciamo a mettere un po' di musica. E iniziamo da 20 anni fa, iniziamo da quando Dischi Volanti ha aperto. Noi siamo però il 20 aprile, Dischi Volanti ha aperto a dicembre, probabilmente, chissà, questo disco era in catalogo. Parliamo di Mezzanine, dei Massive Attack, terzo e e anche ultimo album di questa band con la formazione originale, con 3D, Daddy G e Mushroom. Uno era un figlio di immigrati napoletani, uno immigrati giamaicani e l'altro indiani dell'Ovest. Mushroom all'anagrafe Andrew Wolfs. Andrew, come si pronuncia, Fabio? Non lo so. Wolfs, non lo so. Non parlo indiano. E comunque lascerà il gruppo proprio dopo l'uscita di questo disco per, insomma, per delle divergenze legate al nuovo sound, che era decisamente più contaminato rispetto alle sonorità quasi prettamente dub e elettroniche dei dischi precedenti. Il disco all'epoca, dopo pochi mesi che uscì nei negozi, fu anche messo online, era scaricabile sul sito gratuitamente. Ferruccio, tu ricordi qualcosa di Mezzanine? Ce l'avevi? Ne vendevi qualcuno? Sì, all'epoca sì, e devo dire che forse lo vendo di più adesso. Adesso poi c'è il ventennale, c'è anche una tournée in programma, tre date in Italia. Live proprio tutto il disco. Tutto il disco, a Milano, Roma e un'altra città che non ricordo, forse Padova in genere, queste cose, Padova o Ferrara. E comunque, queste cose. Ferrara o Padova? Ferrara o Padova, perché sono città, io mi sono capito. Angel, Massive Attack, ciao Fabio, buon ascolto. Questa è Angel Massive Attack. A proposito, 06 49 17 50, se qualcuno ha anche delle curiosità da chiedere al buon Ferruccio, anche su, non lo so, su come funziona un negozio, insomma, quello che vi pare. Sarebbe splendida una telefonata di qualcuno che ordina un disco adesso, di qualcuno che ordina un disco o di qualcuno che ci è andato e lo insulta pesantemente. Siamo sempre pronti. Vai, più che altro vai, raccontaci qualcosa. Sì, infatti, Ferruccio, un fatto, qualche cosa di curioso, qualche domanda stramba, no? Magari nei primi anni in cui stavi in negozio, visto che adesso ne capitano parecchie. Una delle mie preferite è arrivato un signore in negozio, tutto trafelato, Guarda, io sto cercando questo disco di Bob Dylan in vinile, non lo trovo da nessuna parte, sono abbastanza disperato, ho detto, vediamo, ne ho parecchi. E no, mi mostra il telefono con la foto di Desire, però con l'etichetta Nice Price, e mi dice, guarda, il disco è questo, si intitola Nice Price. Io sono riuscito a far finta di niente, quel disco sapevo di averlo, allora non volevo metterli in difficoltà, sono andato al reparto Bob Dylan, gli ho detto, guarda, il disco è questo. Ah, fantastico, fantastico. E è uscito contento come un bambino. E tu non gli hai detto la verità dopo, neanche a... No, non ho avuto il coraggio, perché sarebbe stato veramente imbarazzante. Grande. Senti, qualcos'altro invece di simile? Un giorno mi ha chiamato un ragazzo al telefono, mi ha detto, guarda, ti devo riportare quest'album, perché quello che ho comprato da te va troppo veloce, si sente troppo veloce, ha un ritmo troppo, cioè... sarà fallato. Ho detto, riportamelo, vediamo. Un CD o un vinile? Un CD. No. E qual era il CD? No, non mi ricordo, perché poi non è più passato, era per fortuna sua. Perché tu li tratti male i clienti, no? Sì, alcuni sì. Io spero di trattare male solo quelli che se lo meritano, però se non, soprattutto se non salutano quando escono, divento intrattabile. Giustamente, cavolo. Per Bacco. E basi. E basi, io. Educazione. Per forza. Dai, mettiamo un altro po' di musica. Dai. Eravamo al 98 con Alessandro Mastivatta, che è Angel, e saltiamo qualche anno, arriviamo al 2001, anno in cui esce Vespertine della signora Bjork. E Vespertine è il suo quarto album, album che ha registrato dopo, che ha registrato praticamente quasi esclusivamente al computer nelle pause della lavorazione del film con Lars von Trier, Dancer in the Dark. Probabilmente, almeno questo è il mio giudizio, il disco di gran lunga più bello di Bjork, e artista che non so, Ferruccio, quanto vende negozio, che comunque nella sua carriera ho letto in questi giorni qualcosa, ha venduto più di 40 milioni di album, comunque resta un nome grosso, un nome che ha venduto tanto, probabilmente negli ultimi anni ha preso una deriva troppo cerebrale, troppo intellettuale, parlo sempre dei miei gusti. Vespertine resta una bomba, volevi... Però, al suo zoccolo duro, poi soprattutto post omogeni. Sì, sì, no, i primi album non c'è dubbio, io parlavo degli ultimi 10-15 anni di carriera di Bjork, insomma, che sono ardui. Mi reputo un fan, ci ho provato, l'ho comprati tutti, ma tranne l'ultimo, non sono abbastanza rifiutato. Comunque noi andiamo su uno dei pezzi più belli dell'album. Andiamo sul sicuro, dai. Andiamo sul sicuro. L'usato sicuro, It's Not Up to You, Bjork. How do I know? Fabio, abbiamo rischiato di finire qua la trasmissione, non solo questa, anche Non andare più in onda. Perché? Perché stavo per tagliare il pezzo sulla coda che non mi ricordavo e tu non me l'avresti mai perdonata, lo so. Comunque, vabbè, è andata, è passata. Oh Ferru, il prossimo artista mi sa che ti tocca tutto, perché so che c'hai una storia carina. Il primo disco di Damien Rice è stato... perché, allora, premessa, io vengo dal mondo dei fumetti e di musica sapevo veramente poco, e quando è uscito il primo disco di Damien Rice ero rimasto veramente folgorato, però in vinile non era mai uscito, e l'anno scorso per la prima volta hanno annunciato la ristampa in vinile, quindi io sono andato giù pesante, ne ho ordinate un bel po' di copie e mi è arrivato regolarmente. Lo metto in vendita, per prime due settimane non ne vendo neanche uno, poi vado a vedere in rete e scopro che non ce l'ha nessuno, né i venditori online, né gli altri negozi, né Discogs in rete. Ce l'hanno in tre e lo vogliono in 70 come le rarità più ambite. Allora mio amico vende su Discogs, gli ho detto vabbè, mettiamone uno su Discogs, lo mette su 20 secondi, lo vendiamo in America, cioè negli Stati Uniti, ne rimettiamo un altro, lo vendiamo in Thailandia, ne mettiamo un altro, abbiamo spinto in Giappone, quindi alla fine per una settimana, no, per circa tre settimane siamo stati l'unico, praticamente l'unico negozio al mondo ad avere Damien disponibile il primo disco di Damien Rice. Poi questa falla della distribuzione è stata tappata, però è stato veramente... è forte! Siamo sentiti veramente onnipotenti. E tu che pezzo hai scelto di Damien Rice? Io ho scelto un pezzo delle B-side che hanno aggiunto all'edizione in vinile, Woman Like a Man, che è un pezzo molto acustico e molto grezzo, ma veramente, veramente bello. Like a man, like a woman, like a man, like a man, like a man, like a man. get fucked inside out. Do you wanna be rude? Do you wanna be fool? Do you wanna be a woman like a man, like a woman, like a man? Do you like a man? Like a man, man, man, man, man, man. Do you like a man? Questa era Damien Rice. Però... Sì, sono particolarmente affezionato a questo disco perché ha segnato anche il mio passaggio dal mondo dei fumetti al mondo dei dischi, perché io lavoravo di giorno nel negozio di dischi e poi la sera facevo le serate nel negozio dei fumetti, quindi mi portavo due o tre CD che mi sembrava che si potessero vendere di sera, li facevo sentire e li vendevo, e uno di questi insieme a Anthony De Johnson era il primo album di Damien Rice. Però, c'è un però, era il periodo della pirateria, dello scarico, e quindi dovevo tutelarmi, perché più che altro dovevo tutelare la mia salute, perché mi mangiavo il fegato. Come si dice a Brescia, rosicavo parecchio. Quindi siccome un sacco di gente veniva lì, faceva la fotografia al CD e poi andava a scaricarselo, io avevo preso questa abitudine di portarmi un CD civetta. Avevo questo CD di musica industriale abbastanza inascoltabile di un gruppo tedesco con un nome di una quarantina di lettere, veramente difficilmente riproducibile. Io mettevo Damien Rice, allora non c'era Shazam, ero facilitato. Quando la gente mi chiedeva chi è questo? Chi sta cantando? Io facevo vedere questo CD. Se la gente mi diceva bravo o mi diceva mi segno il titolo, lo fotografava, niente. Se diceva ah, lo compro, allora tiravo fuori il mio CD, dicevo, no, e spiegavo lo stratagemma. E questo mi ha salvato la vita. Mi ha salvato proprio letteralmente mia salute, sì, il fegato. Vabbè, senti, ma invece dischi a cui sei anche, che ne so, magari particolarmente legato, perché quando hai cominciato hai venduto in maniera particolare o legati a... Beh sì, perché all'inizio, io comunque anche adesso, però soprattutto all'inizio ero veramente acerbo, conoscevo due cose, perché il negozio, bene ricordarlo, l'ha aperto mia moglie Caterina, e lei è la vera intenditrice, appassionata, okay, esperta di musica. Quando ho visto che cominciavano a chiedermi vinili di hip hop, e io allora non ne conoscevo praticamente nessuno, ho fatto come quando si va al ristorante con pochi soldi, ho coperto la lista dei nomi guardando i prezzi e ho scelto quelli che costavano meno. Quello che quelli costava che costava meno? Quelli che costava meno. Quanta qualità, Ferruccio? Capito. Per fortuna uno di quelli che costava meno era il Matic di Nas. Per bacco. Io ho cominciato a comprarlo e vedevo che continuavo a venderlo, dicevo, però che fortuna. E ho continuato a comprarne sempre di più, sempre di più, e è diventato uno dei dischi più venduti del negozio, sì. Poi l'ho ascoltato e ho capito perché la gente impazziva per questo disco. Allora, ce lo sentiamo, Ale? Vai, sentiamocelo, Fabio, tanto il pezzo è inutile che, insomma, vabbè, tutto parliamoci, è un capolavoro, il pezzo l'hai però... scelto tu, dai. No, vabbè, ma chi non lo conosce? Scelto New York State of Mind, dai, vai, metti. Yeah, yeah. Yo, Black, it's time. Bird, it's time, it's time, man. Begin. Yeah, straight out the fucking dungeons of rap, where fake niggas don't make it back. I don't know how to start this. Rappers are monkey flipping with the funky rhythm I be kicking. Musician, inflicting composition of pain. I'm like Scarface, sniffing cocaine, holding an M16. See with the pen, I'm extreme. Now, bullet holes left in my peepholes. I'm suited up with street clothes. Hand me a 9 and out the beat flows. Y'all know my steelo, with or without the airplay. I keep some E and J, sitting bent up in the stairway. Or either on the corner, betting grants with the CeeLo champs. Laughing at bass heads, trying to sell some broken amps. G-packs get off quick forever, niggas talk shit. Reminiscing about the last time the task force flipped. Niggas be running through the block shooting. Time to start the revolution, catch a body head for Houston. Once they caught us off guard, the MAC-10 was in the grass. And I ran like a cheetah with thoughts of an assassin. Picked the Mac up, told brothers back up, the Mac spit. Lead was hitting niggas, one ran, I made a backflip. Heard a few chicks scream, my arms shook, couldn't look. Gave another squeeze, heard it click. Yo, my shit is stuck, tried to cock it, it wouldn't shoot, now I'm in danger. Finally pulled it back and saw three bullets caught up in the chamber. So now I'm jetting to the building lobby, and it was full of children, probably couldn't see as high as I be. It's like the game ain't the same. Got younger niggas pulling the triggers, bringing fame to their name and claim some corners. Crews without guns or corners, in broad daylight, stick up kids, they run up on us. Four fives and gauges, max and fat, same niggas that catch you back to back, snatching your cracks in black. Yo, is a snitch on the block, getting niggas knocked. So hold your stash to the coke price drop. I know this crackhead who says she gotta smoke nice rock. And if it's good, you bring your customers and measuring pots. But yo, you gotta slide on a vacation. Inside information keeps large niggas erasing and they rhyme spacing. It drops deep as it does in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Beyond the walls of intelligence, life is divine. I think of crime when I'm in a New York state of mind. State of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. We having dreams that I'm a gangster, drinking Moet's, holding texts, making sure the cash came correct. Then I stepped, investments and stock, sewing up the blocks to sell rocks. Winning gunfights with mega cops, but just a nigga walking with his finger on the trigger. Make enough figures until my pockets get bigger. I ain't the type of brother made for you to start testing. Give me a Smith and Wesson, I have niggas undressing, thinking of cash flow, Buddha and shelter. Whenever frustrated, I'm a hijack Delta. And the PJs, my blend tape plays, bullets are strays, young bitches is grays. Each block, it's like a maze full of black rats trapped. Plus the Allen is packed. From what I hear in all the stories, when my peoples come back black, I'm living where the nights is jet black. The fiends fight to get crack, I just max. I dream I can sit back and laugh like Capone. With drug strips on, all the legal luxury life, rings flooded with stones, homes. I got so many rhymes, I don't think I'm too sane. Life is parallel to hell, but I must maintain it be prosperous. Though we live dangerous, cops could just arrest me, blaming us we're held like hostages. It's only right that I was born to use mics, and the stuff that I write is even tougher than dice. I'm taking rappers to a new plateau, through rap slow. My rhyming is a vitamin, held without a capsule. The smooth criminal on beat breaks, never put me in your box if your shit eats tape. The city never sleeps, full of villains and creeps. That's where I learned to do my hustle, had to scuffle with freaks. I'm an addict for sneakers, 20s a Buddha and bitches with beepers. In the streets I could reach her, about blacks I teach her. Inhale deep like the words in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. I lay puzzle as I backtrack to earlier times. Nothing's equivalent to the New York state of mind. State of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Quello era Nas. Intanto io ringrazio per il trillino, però purtroppo vige la regola sempre dello stesso anno, Fabio non la cambia, che il trillino deve arrivare entro un minuto. Era passato un po' di più, quindi non l'ho potuto rimettere, io avrei voluto, però insomma la colpa è sua. 17:50 ve lo passo, non c'è assolutamente nessun problema. Ragazzi, mi fate chiudere la parentesi pop a questo punto, perché siamo usciti un attimo dalla linea del tempo, visto no, ma poi che... diciamo pure che questa era una puntata come siamo negli scaffali di un negozio di dischi, quindi sarà molto... C'è una cosa che vorrei chiedere. Mi fai finire di dire una cosa, sarà molto cosa. Vabbè, dai, finisci. Sarà molto varia, nel senso che passeremo, non dico da che adesso mettiamo Mina e dopo mettiamo Minoretano, ma... Ah no? No. Peccato. Abbiamo segati. Però, insomma, sarà una puntata molto variegata. Io, scusate, esco un attimo dalle cose che ci siamo detti. E Ferruccio, una piccola cortesia. In genere, quando si va nel negozio di dischi, una delle difficoltà maggiori è capire in quale ordine sono messi gli album. Io mi ricordo una volta una polemica su: tu i dischi li metti sulla sinistra della lettera o sulla destra? Però non è tanto sulla sinistra o sulla destra, ma quanto il vinile, se è davanti o dietro. O davanti o dietro. Allora, se io metto il nome dei gruppi principali, Pink Floyd, sì, e l'ordine della scatola è dal primo all'ultimo alfabetico, quindi all'inizio della scatola ci sono gli ABBA e in fondo alla scatola c'è David Bowie. Mm-hmm. Se io ho David Bowie, i dischi di David Bowie li metto dietro il nome Bowie scritto sul cartello, perché immagino che arrivi a Bowie, vai avanti, prosegui. Se li metto prima, come succede però in tutti i negozi dei dischi, io non so dove comincia David Bowie, quindi devo cominciare al contrario, devo cominciare dall'ultimo in fondo che si appoggia sul cartello e andare a ritroso, quindi non so dove cominciano. Mi sembra più logico, come succede nelle librerie. Scusa il rito per la faccia di Alessandro, vai. No, perché questo ti dimostra con quanta cura che il mondo dei pazzi. Sì. Mi sembra più logico, come succede nelle librerie, c'è l'ordine alfabetico che va da sinistra a destra, quando comincia c'è il cartello con la C, i libri della C sono dopo la lettera C, non prima. Sì. Così mi sembra la stessa cosa, cioè molto più logico farlo anche con i vinili. Però penso di essere l'unico al mondo, l'unico per negoziante che fa. Esatto. Per le porci. Non dai. Penso che Alessandro abbia capito, comunque andiamo avanti, Alessandro. Penso di aver capito, però io comunque quando in genere, quando vado, io dico: senti, mi metti via questo direttamente, così mi evito tutta sta cosa. Vabbè, ragazzi, io chiudo la parentesi pop. Noi intanto siamo arrivati al 2005, se non sbaglio, col prossimo album, sesto album per Common, un album che fu premiato veramente tanto da siti, riviste musicali, pop, ma non solo, come disco dell'anno. L'album fu prodotto tra l'altro da Kanye West, dallo stesso Common, e fu anche uno degli ultimi album prodotti da Jay Dilla, che morirà pochi mesi dopo. E di Jay Dilla noi parlammo proprio nella prima puntata, proprio legati a un negozio di dischi. Nel disco partecipano, oltre allo stesso West, anche i Last Poet, però la traccia che abbiamo scelto si chiama Key City, perché insomma secondo me ricorda anche molto Key City. No, è una battuta. E no, non lo so, che è una battuta, però non può essere pure che ho sbagliato, che è C-City o K-City, non lo so. Lasciamo. Però comunque, noi siamo nel 2005. Dubbio. E ci riallacciamo al buon Nas, lui è Common e l'album è B. The Christ, nigga, cross me. Took it out of space, and niggas thought they lost me. I'm back like a chiropractor with B-boy survival rap. It ain't 94, Joe, we can't go back. The game need a makeover. My man retired, I'ma take over. Tell these halftime niggas race over. I'm raw hustlers, get your bacon soda. Too many rape the culture. Leave rappers with careers and they faith over. It's a war going on. You can't fake being a soldier in the basement. Listening to tapes are ultra magnetic to the fact I'm Messiah's black. I turn the TV down, we can take it higher than that. I wonder if these whack niggas realize they whack. And they the reason that my people say they tired of rap. Inspired by black Muslims and Christians. Pushing cutlasses, dope, and other traditions. Enough conditions out of city. Ah, non mi importa, è passato il minuto, ma il pezzo l'ho scelto io, è arrivato il trillino. The Christ, nigga, cross me. Took it out of space, and niggas thought they lost me. I'm back like a chiropractor with B-boy survival rap. It ain't 94, Joe, we can't go back. The game need a makeover. My man retired, I'ma take over. Tell these halftime niggas race over. I'm raw hustlers, get your bacon soda. Too many rape the culture. Leave rappers with careers and they faith over. It's a war going on. You can't fake being a soldier in the basement. Listening to tapes are ultra magnetic to the fact the Messiah's black. I turn the TV down, we can take it higher than that. I wonder if these whack niggas realize they whack. And they the reason that my people say they tired of rap. Inspired by black Muslims and Christians. Pushing cutlasses, dope, and other traditions. And our conditions are the city, the city, the city, the city, the city, the city. Come on. And this say shot city. Don't stop. A black figure in the middle of chaos and gunfire. So many raps about rims, surprise niggas ain't become tires on the street. You turn cold and then go screech. I tell them fuck them like I do the police. The beast is running rampant. I'm in between seats trying to have sex with Sandrick. But a ghetto, trying to make a get up stand up anthem. You spit hot garbage, son of Sanford. What you rapping for, to get fame and get rich? I slap a nigga like you and tell him Rick James, bitch. With your Hollywood stories on porches, we probably heard stories about who became rich. And whatever life they hit, we wanna hit the same switch. You didn't know where to aim it, you still remain bitch. I'm forever putting words together. Some are seven mothers, some daughters, and fathers, some sons. The name Khan has never been involved with Run. Unless it's DMC or running these bras to being free. I'm harder than the times, you hardly scary. Holding gats inside you, cat is Holly Berry. They ask me where hip-hop is going. It's Chicagoan. Poetry's in motion like the picture now showing. It's the city. The city, y'all. The city, the city, y'all. Come on. Bravo. E Ferruccio niente, e dice che questo non vende tanto a Milano. No, ma già un pubblico un po' per più. Vabbè, però. Insomma, andatevelo a comprare, andatevelo a comprare. È più per appassionato di, credo, di proprio di black music e hip hop, per carità, ma non arriva diretto, credo, come arriva a Nas o come arriva oggi Kendrick Lamar, per esempio. Ah, beh, certo. Io non ce l'ho il vinile di questo disco, Ferruccio. Tu ce l'hai? Ne ho un paio, però non so se no. Questo mi si è rotta la puntina del vinile, tra l'altro. Ok, 25 aprile è il tuo compleanno, mi sembra, no? Quindi stiamo lanciando una. Che data, ragazzi? Sottoscrizione. Cioè, una stecca proprio. Sì, stecca proprio per voi. Vabbè. Allora, prima questa di continuare con la musica, lo vogliamo dire? Sì, non questa è Radio Onda Rossa. Questa è Radio Onda Rossa, siamo tutti a 87.9 di frequenza. Faremo le 11 perché abbiamo un altro. Il telefono per chi vuole 06 49 17 50. Adesso approfitto dell'ospite Alessandro per fare un intermezzo. Dai, provo ad essere un po' serio. Prova. Con te è complicato, ma ci provo. Prima raccontavi anzi Ferruccio del CD Civette, di Damien Rice, di quanto insomma hai dovuto faticare, al di là dei giudizi poi di ognuno ai propri, diciamo, però di quanto hai dovuto faticare per arginare la pirateria, per continuare a vendere, quindi ad avere un reddito dalla tua attività. Poi a un certo punto annunciato, è davvero arrivato il vinile, il famoso ritorno del vinile. E io, da consumatore di musica, io sono uno di quelli che ancora compra, scarico anche, ma compro anche tanta musica. E si vede proprio, i negozi stanno cambiando anche proprio, si stanno ristrutturando, è tornata l'isola al centro con i vinili, insomma. Racconta tu, è cambiata la clientela, vendi di più e sono cambiati i gusti del pubblico? Allora, premettendo che probabilmente il rilancio del vinile è stata l'unica cosa azzeccata dalle etichette discografiche negli ultimi 30 anni di attività. Bella, bella media. Mazza. Perché comunque hanno introdotto loro la musica liquida sperando di vendere il nulla, e invece si sono trovati questa cosa che li ha quasi uccisi. C'è da dire che il vinile tra il 1993 e il 2008 era praticamente scomparso, tutti lo davano per morto, quindi rilanciare una cosa che è morta è più difficile, però bastano dei numeri relativamente piccoli per far sì che diventi un fenomeno. Infatti abbiamo comunque le tirature della quasi totalità dei vinili vanno tra le 500 e le 5000 copie, quando nel 94 un disco di Guccini, che era tiratura limitata, numerata, in un periodo in cui il vinile era morto, tirava 4000 copie. La ristampa 2 anni fa dello stesso disco, in pieno rilancio del vinile, è di 1000 copie. È anche vero che il numero dei negozi di dischi è diminuito, è assolutamente diminuito. Quindi se prima io parlo di Milano, c'erano 90 punti vendita, adesso ce ne saranno 10. Possono essere una decina, quindi è chiaro che la fetta da spartirsi, al netto dei giganti, certo, che vendono online, è molto più grossa. Quello che mi fa piacere di questo ritorno al vinile è che non è solo una cosa collezionistica, anche se nell'ultimo anno c'è stata una deriva di edizioni limitate con i vinili colorati e via dicendo, ma è stata una riscoperta di tipo proprio, come dicevo prima, di fruizione. Quindi i ragazzi, anche, c'è un sacco di gente che, ecco, arriva, è anticipato, cioè, i più giovani pure comprano il vinile. Sì, sì, anche vabbè, se sono proprio cinquantenne. Se sono molto giovani vengono col genitore, ma dai 18 anni in su vengono da soli, si comprano il vinile, hanno un piatto a casa che o quello nuovo preamplificato oppure hanno rimesso a posto quello dei genitori. Io ho 7, 8, 10 persone a settimana che mi chiedono dove posso riparare il giradischi, dove posso comprare una puntina, dove posso comprare un giradischi. Poi tanti mi chiedono anche, ma è vero che la qualità del vinile, dell'ascolto, è più alta al CD? Lì è difficile. Quello che dico sempre io è che l'ascolto del vinile è sicuramente un ascolto diverso, un ascolto concentrato. Tu metti il disco sul piatto, lo devi spolverare, il disco dura 20 minuti. E poi quindi, lo devi girare. Quando ascolti il disco, ascolti il disco. Non è come quando metti il CD o metti iTunes e poi fai altro. Senti, diventa un sottofondo. E Sufjan Stevens ce l'hai? Esiste il vinile, lo vendi? Sufjan Stevens lo vendo molto. Il penultimo album, Carry On, mi pare. Ha venduto, Carry On Lover. Carry On Lover. Ah no, Carry On. Ne ho venduti un sacco. Illinois, quando riesco a trovarlo, lo vendo sempre. Ecco, ferma di qua perché qua ti volevo portare, non era preparato, perché continuavo a sentire un po' di musica. Ale, mi devo scusare, io pensavo fosse il 2-6, perché noi per complicarci la vita ci siamo dati la regola di non doppiare gli anni. In realtà ho scoperto solo poco fa e non ci ho avuto il coraggio di dirtelo. Vabbè, che siamo sempre nel 2-5. Io pensavo fosse il 2-6, ho sbagliato, chiedo scusa, ma non penso che cambi moltissimo. Vabbè, ne parliamo in privato. Ne parliamo in privato, Fabio. Comunque, il disco è Camano in fine di Illinois, è il terzo disco, credo, di Sufjan Stevens. Comunque, il disco che lo fa diventare un gigante. Lui ebbe un'idea folle, che poi non sta portando avanti, per fortuna, cioè registrare un disco per ogni stato americano, per ogni stato degli Stati Uniti. E era partito con Michigan, che è il suo stato natale. Beh, poi ha fatto Illinois, avanti. Poi per fortuna si è fermato. Comunque Illinois è un disco splendido e la canzone che stiamo per mettere in qualche modo può essere considerata una canzone pop perfetta. La gran parte di voi la conoscerà perché è legata a un film che ha avuto un bel film che ha avuto un discreto successo, che è Little Miss Sunshine. La canzone è Chicago. Go, drove to Chicago. All things know, we sold our clothes to the state. I don't mind, I don't mind. I made a lot of mistakes in my mind. Oh, parked in parking lots. I don't mind, I was in love with the place. In my mind, I made a lot of mistakes. In my mind, you came to take us. All things go to recreate us. All things go, we have a mindset. All things go, you have to find it. If I was crying in the van with my friend, it was for freedom from myself and from the land. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. You came to take us. All things go, all things go to recreate us. All things grow, all things grow. We had a mindset. All things know, you had to find. Allora Ferru, io vorrei approfittare anche per parlare di una delle piaghe sociali del nostro secolo, ovvero il Record Store Day. Che ci dici? Prima hai detto dischi colorati, come funziona questo? Il Record Store Day è l'estremismo, l'estremizzazione di questo fenomeno del collezionismo. È nato magari con una buona intenzione, adesso saranno passati già 10-15 anni, quando alcuni cantanti famosi, Bruce Springsteen e compagnia, in piena crisi del negozio, del classico negozio di dischi sotto casa, decisero di fare sia dei concerti live nei piccoli negozi che fare delle edizioni esclusive per quel giorno, per quel giorno, e esclusive solo per i negozi di dischi, per i Record Store. E all'inizio poteva essere una cosa interessante, poi come sempre l'idea è stata completamente ampliata e rovinata. Il mercato ti ha mangiato l'idea. E alla fine, più che il Record Store Day, è una label, un day. Label day, perché d'accordo. Ci sono centinaia di uscite tutte quel giorno, per cui un piccolo negozio che vorrebbe avere una minima, un minimo assortimento di tutto quello che esce dovrebbe veramente dissanguarsi. Certo. E la maggior parte delle allora, le uscite quelle veramente rare, che hanno veramente un senso, che tirano 500, 1000 copie, di solito non escono o dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti, perché comunque il numero dei negozi è sufficiente a esaurire la disponibilità. Il resto sono riedizioni con o dischi colorati o edizioni di live raffazzonate, tirate in un numero viola, però viola, colorate, splatter, picture disc, vendute a dei prezzi e soprattutto... Ah, ma il picture disc, scusa, al volo, ma esiste ancora? Sì, sì, sì, li fanno ancora. Fanno anche dischi sagomati per Natale, esce il disco dei Beatles a forma di albero di Natale. Il disco sagomato. Un sagomato... Credo che sì. Imagine. Credo che sì. No, no, no. Per Natale. Ah, per Natale sagomato. L'artista scelgo io. Il problema è che questi dischi, invece di essere venduti direttamente ai negozi, vengono venduti dai distributori soliti. E quindi cade un po' il motivo. In più, i negozi di dischi ormai, quelle uscite veramente rare, non le danno più a prezzo, al prezzo che dovrebbe essere originale al cliente, ma li tengono via perché sanno che dopo qualche mese potranno venderli a 10 volte tanto. Quindi qua potremmo aprire un discorso lunghissimo, ma non ci facciamo il sangue amaro. No, metto un po' di musica dance. Potremmo farci il sangue misto. Vai, facciamo ballare Ferruccio qua sopra. Su. Dai, vai. Ferru, vai, sali su. LCD Sound System, anno 2007, secondo splendido per quanto mi riguarda, album per loro, dopo l'ottimo anche esordio omonimo del 2005. Loro sono americani, so che in Inghilterra hanno tantissimo successo nel Regno Unito. E un disco che appunto ha avuto tantissimi anche riconoscimenti. La canzone che abbiamo scelto si chiama Time to Get Away, LCD Sound System. It's time to get away. It's time to get away from you. It's time to get away. It's time to get away from you. You bought a lot of money, but me, I'm catching tatty tummy. And you make me sleep. I try and try, but you undermine me. And I start to be sensible, you know what I mean. And so it's time to get away. It's time to get away from you. I'm dying to get away. I'm dying to get away. Next time we'll talk it over, and we can start again. Of static, and me, I would like it automatic. Oh, what did you think would happen next? Oh, what could it ever be? Talk about it. E cambiamo radicalmente. Che te pareva? Che fai come te pare. Che vuoi? No, no, niente. Cambiamo radicalmente genere, dicevo semplicemente, non c'era nessun giudizio. È per dire che, come abbiamo spiegato prima, passiamo di un po' di palo in frasca, però andiamo sull'unico gruppo italiano che sta in scaletta, tra parentesi. Parlo degli After Hours. Siamo arrivati in questo racconto insieme a Ferruccio di Dischi Volanti, siamo arrivati al 2012, anno in cui esce Padania, appunto, degli After Hours. Padania erano lontani dalle scene da qualche anno, hanno il disco è uscito dopo una loro tournée nei piccoli locali statunitensi. Gli After Hours è uno dei pochi gruppi italiani della scena indie rock, insomma, che è riuscito a uscire davvero dai confini nazionali, e quindi di questo gli va dato atto. Sì, mi avvicino. No, ti faccio l'improvvero in diretta, perché se non ti basta il gesto io non so più che fare. Non posso stare a spostare cursori in continuazione. Scusami, Alessandro. Quindi, vabbè, la Padania che canta Manuel Agnelli non è certo la Padania quella leghista o che altro, anzi, nelle interviste il disco uscì in un momento di grandi crisi della Lega, in seguito a scandali giudiziari, Bossi e quant'altro, non ci interessa qui, però ricordo che gli era molto chiesto nelle interviste successive alla pubblicazione dell'album, e lui ci teneva a specificare che la Padania non è assolutamente un luogo fisico, non intende un luogo geografico, ma anzi in quel caso era, per come la intende lui, è uno stato d'animo, è lo stress per raggiungere traguardi sempre più, spostare sempre l'asticella sia dal punto di vista personale che professionale, ma in maniera insana, qualcosa che ti dà stress. Quindi questa era la Padania di Manuel Agnelli. La canzone diventa immediatamente un classico della band, uscita anche come omaggio al nostro ospite che da quelle latitudini viene. Non ho altro da aggiungere, Ale, vai. Due ciminiere, un campo di neve fradicia. Qui è dove sono nato e qui morirò. Se un sogno si attacca come una colla all'anima, tutto diventa vero, tu invece no. Ma puoi quasi averlo, sai, puoi quasi averlo, sai, tu puoi quasi averlo, sai, e non ricordi cos'è che vuoi. Ha ancora senso battersi contro un demone quando la dittatura è dentro di te? Lotti, tradisci e uccidi per ciò che meriti, fino a che non ricordi più che cos'è. Cos'è che vuoi? se è finito male, fare parte della storia, anche quella più crudele, liberarti dalla fede e cadere finalmente, tanto è furbo più di noi, questo nulla, questo niente. Se un sogno si attacca come una colla all'anima, tutto diventa vero, tu invece no. After Hours, siamo un po' After Hours pure noi oggi, eh? Sì, oggi sì. Sono le 8:20. Io ho fame. 9:20. 9:20. Sì, vabbè, io stavo già che era 6 e poi. Vabbè. Tu stai ancora con l'ora legale. Sì, con l'anno prima, vabbè, diciamo verde. Ferru. Beh. Allora, io volevo innanzitutto salutare la mia magnifica famiglia, mia moglie, sta bene? Caterina, i miei figli. Mia figlia Irene e mio figlio Andrea. Che ciao. Bello. Ciao cari. E dopo questo momento commovente. Fa molto Totò il pipino. Una delle più grosse soddisfazioni che abbiamo avuto a Dischi Volanti è stato scoprire anche grazie a Twitter un cantante, un progetto musicale di questo cantante fiammingo che però sta a Barcellona. Scoperto tramite F4Fake che mi mandò un link su Twitter. Ascoltai questo disco acustico, molto Damien Rice, molto Mika Pinson, mi piacque, lui vendeva direttamente le sue cose autoprodotte, cominciai a comprarne, gli feci il primo ordine, 3 copie di tutti e 3 gli album, lui mi scrisse e mi disse, ma sei sicuro? Non ne stai comprando troppi? Ho detto, no, mi piacciono i dischi. Cominciai a venderli, poi li compravo a scatoloni e ne ho venduti veramente centinaia, è diventato il caso di Dischi Volanti. Lui in tutte le interviste mi citava, mi diceva, no... Va bene. E poi c'è questo negozio a Milano che vende a nastro tutti i miei dischi. Era così soddisfatto che era in Italia per fare degli home concert e allora mi ha scritto, mi ha detto mi piacerebbe molto suonare da te, abbiamo fatto un concertino, una cosa acustica in negozio che è durata un'oretta, veramente veramente molto molto bella. Vai, allora annuncia la canzone, annunciala tu. E quindi degli A Singer o Song, The Crying Game, dal terzo album, There Is Home For You. I smashed the TV last night. Quiet evening just went wild. I broke a bottle on the table, walked on glass into the night. A trail of blood I left behind, mumbled words like fuel for fire. Try to keep my shoulders straight despite the weight of the sky. And I cried, I cried out loud. I cried. for the few who fail to sleep when they dream. All the beauty that I see, all the joy I fail to feel. It's not me who chose the road, it's the road that's chosen me. And then I cried, I cried, I cried out loud. I cried, I cried, I cried out loud. I cried, I cried, I cried out loud. And then I drowned in silence while another world evening just went quiet. Dai, l'hai rovinata, non mi puoi fare bombole così. La non riesco sorpresa. A resistere. No, vabbè, troppo forte. Senti, Ferru, c'è una cosa che magari chi non è su Twitter, che non conosce, che si chiama la strena di dischi volanti. Sì, un che po'. Che tra un pochino ti tocca. Sì, mi tocca, mi ha preso la mano, anche perché comunque sono aumentato un po' i follower, quindi è diventato molto impegnativo. Allora, Cos'è? Da 4-5 anni facciamo questa riffa appena dopo Natale, io distribuisco i numeri, metto in palio una decina di dischi. Tutti, posso dire, tutti dischi bellissimi. Sì, devo dire che siamo parecchio generosi. Ti sveni sì. Con la strenna. Senza finta modestia. Guarda chi è arrivato. Senza finta modestia. Ciao. Stavamo parlando, scusa lui è Ferruccio, stavamo parlando della strenna di dischi volanti. E quest'anno, in occasione del 20° anniversario, con il beneplacito della vera proprietaria che è mia moglie, abbiamo deciso di fare, invece di una specie di lotteria, faremo un enorme mercante di Venezia. Quindi daremo sempre mercante in un... Venezia, mercante in fiera. Nel resto d'Italia. Sì, sì, ok. Quindi, invece di estrarre i premi vincitori, estrarremo tutti i numeri e quelli che rimarranno inestrati, gli ultimi 10 o 15, saranno i vincitori. E per premiare gli ascoltatori di Radio Onda Rossa in diretta, chi manderà un tweet a dischi volanti? Io, subito. Con la parola. Lo faccio io, non lo sapevo. Vai. Con la parola chiave Juve merda, riceverà un numero in via del tutto eccezionale. Quindi, chi manda un tweet entro le 10 a dischi volanti con la parola chiave Juve merda, ci metto veramente un attimo. Riceverà un numero per la strena. Taggando a dischi volanti e Note Cose Città. Esatto. Perché almeno così c'è anche uno fa il notaio e l'altro prende il numeretto. Va bene, molto figo. Ok, allora andiamo avanti che abbiamo quasi terminato. Posso rialzare un po', bene, ragazzi, i ritmi della trasmissione? Allora, siamo arrivati intanto noi al 2014, esce Black Messiah, terzo e al momento credo anche ultimo album di D'Angelo. Io avrei detto secondo, terzo album. Come secondo? Il primo... 95, ah, okay. Mi sembra, no? Primo 95, poi c'è stato il disco dopo 5 anni che insomma tutti l'aspettavano, che fu un grande successo. Il primo fece il secondo disco, che poi è quello che l'ha portato al successo, e poi dopo ben 14 anni esce questo Black Messiah. Black Messiah o Black Messiah? Me lo chiedevo prima. Black Messiah suona meglio, non lo so, boh, però Mariano, Black Messiah, vabbè. Comunque lui, per chi non lo conoscesse, è un po' uno dei più grandi esponenti del Neo Soul, lo posso dire, Neo Soul. Puoi dirlo. Tante influenze, soprattutto legate ovviamente al meglio della Black Music, da Marvin Gaye, Prince, Sly and the Family Stones. Appunto il primo disco si chiamava Brown Sugar, 1995, e poi esce nel 2000 appunto Voodoo. La traccia che abbiamo scelto si chiama Sugar Daddy, siamo nel 2014, lui è D'Angelo. Thank you. Africa. She needs a peck. She can love it. I just wish that I could open up. Her price things can't hold my own. Lace settings going up her tongue. Ow, ow. Shoulda, shoulda, when you toss that time. Yeah, yeah. The way she make the congregations point. Che discone. Sì, assolutamente. Allora, noi siamo arrivati praticamente quasi alla fine, è rimasto un ultimo pezzo e poi una coda che sarà più che altro un omaggio a un grande artista, purtroppo recentemente scomparso. Allora, io intanto per quello che mi riguarda saluto il buon Ferruccio. Sì, però comunque resto salutiamo. Qua. Cioè, lo saluto così radiofonicamente, virtualmente, sì. Resto qua. Senti Ferruccio, mi confermi allora quello che c'hai detto prima, per gli ascoltatori di Radio Onda Rossa c'è l'85% sulle novità e il 90% sul catalogo. Sul catalogo. A buffo. Così, sì, mi sembra equo. Vai. Giusto? No, questo lo confermo, andata, perché poi non vorremmo far rimanere male i nostri ascoltatori, quindi mi sembra il minimo. L'ultimo pezzo in scaletta, Ale, andiamo su una estrema novità, anzi magari ne approfitto per ordinarne una copia da Dischi Volanti, parliamo di Pedro The Lion. Vabbè, c'è l'85%. Sì, vabbè, mo' al di là del pezzo, vabbè. Non è solo una questione materiale. Comunque Pedro The Lion, nome poco noto, credo, insomma, è più, diciamo, la scena indie rock in qualche modo. Non facevano il suo nome è David Bazan, poi il suo moniker, come molti artisti del panorama indie usano fare, è Pedro The Lion. Non esce un disco sotto questo nome da 15 anni, è uscito proprio pochissimi giorni fa, 3 giorni fa è uscito il singolo che anticipa l'album. Quanto stai sul pezzo, grazie. Questo è anche grazie all'algoritmo di YouTube, se devo essere sincero. E il pezzo si chiama Yellow Bike. L'album che uscirà, a segni della data, Ferruccio, uscirà il 18 gennaio del 2019, si chiama Phoenix. Quindi Pedro The Lion, intanto ci sentiamo Yellow Bike. On a desert Christmas morning, 1981, 1 month shy of 6 years old, of the sun. My first two-wheel bicycle stood by the tree, my heart thumping in my chest. Though I tried, I couldn't ride one yet. Take that sting. You can make it. dai, siamo ai saluti. No, sai Alessandro che cosa non abbiamo detto su... Un sacco di cose. No, tante cose non abbiamo detto, per carità, ma c'è un fatto secondo me curioso che va raccontato. Oggi non so, molti di voi avranno letto i giornali o sentito, non so, in radio, in telegiornale. C'è stato oggi un caso abbastanza unico in Italia, è stato cioè lo spoiler system su un ente di ricerca, in questo caso l'Agenzia Spaziale Europea, ma la filiale, diciamo la sede italiana, è stato rimosso un tale che si chiama Roberto Battistone, era il presidente o il direttore, non so, la carica comunque principale. A me che oggi sia qui a Roma Ferruccio di Schivolanti non sembra un caso. Adesso non voglio montare polemiche e dire, pure perché non li hanno mai visti insieme, tra l'altro. No, non mi sembra un caso che oggi viene fatto fuori Battistone e c'è qua Ferruccio con noi, non lo so. Not prima come. È sparito a un certo punto quando stavamo, non lo so, comunque sia questo, lasciamolo. Vabbè. Fuori. No, l'ultima cosa che devi raccontare per forza, la cosa di Brian Ferry. Allora, c'è questo cliente, sì, bisogna definirlo cliente, che quando entra mi chiama Roccia così, in modo molto colloquiale, che nel giro di un paio d'anni ha ordinato una quarantina di CD. La cosa buffa è che ha ordinato sempre lo stesso CD e quindi CD Brian Ferry, sempre Bet Noir, perché dice che gli piace molto, lo regala alla sorella. Ogni vuoi tanto... salire da me a vedere la mia collezione di Brian Ferry. Ogni tanto mi fa cercare su Google il nome della meteorina a cui lo vuole mandare, però lui periodicamente arriva e mi prendi due per Roccia, mi prendi due copie di Brian Ferry, Bet Noir, va bene. Che grande. Non so neanche come si chiama. Vabbè, però salutiamo. Salutiamolo. Ciao. Fabio. Salutiamo anche Ferruccio davvero. Ciao Ferruccio, grazie. Grazie a voi. Saluti a tutti. Ascoltato. Allora, il notturno lo prende, scendi e la le questioni logistiche facciamo dopo, sei ancora in diretta. Alessandro. Sì, no, era per mandarlo via subito perché sono terrorizzato. Glielo diciamo giù al portone. Comunque approfittiamo, abbiamo salutato Ferruccio. Un piccolo omaggio, come hai anticipato prima tu, che ci sembra doveroso, è morto 3 o 4 giorni fa, non ricordo, domenica, è morto Roy Hargrove, spero che, non so se quanto è conosciuto, comunque è stato un grandissimo trombettista, è morto abbastanza giovane perché non aveva ancora compiuto 50 anni, 49 anni, e abbiamo pensato, lui ha una carriera molto... molto ricca di collaborazioni, dischi a suo nome e dischi con altri. Avevamo pensato di mettere un album e un suo progetto che si chiama RH Factor, in cui ha collaborato tra gli altri con D'Angelo, un disco, più dischi in realtà sotto questo, di questo progetto che mischiavano jazz, funk, però poi non ci sembrava la chiusura adatta. Abbiamo pensato di scegliere un pezzo che si chiama Oh My Say Yeah, di un album che si chiama Habana, che è registrato insieme a un'orchestra di musicisti cubani, tra cui Chugo Valdés al pianoforte. La canzone è veramente magnifica, l'album si chiama Habana, forse ce l'ho detto, del 1997, album registrato dal vivo a Orvieto durante una edizione di Umbria Jazz. E il pezzo è molto lungo, ma lo lasciamo in coda e dura 10 minuti, sentitelo perché è veramente bello. O mai sei è, lui era Roy Hargrove, e ancora noi la prossima settimana in tutto ciò non andremo in onda, quindi no. Ci sentiamo tra 2 settimane e lui è Roy Hargrove. Ciao a tutte e buon ascolto. Ciao a tutti.